9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 7 di ottobre, fine di settimana, che sui mercati sapete che dobbiamo per forza cominciare ogni trasmissione guardando a quello che succede. Dovrebbe tenere il segno, almeno a inizio di seduta, che ha avuto in questi giorni, positive le chiusure asiatiche. Gli spread stamattina addirittura sono scesi a un livello che non si vedeva così positivo da molte settimane, perché veleggiavano intorno ai 350-351 punti base il BTP Bund. Quindi speriamo che questo andamento, che non si deve a novità italiane, si deve alla fiducia, alla risposta di fiducia che dai mercati in questa settimana c'è stata all'annuncio che l'Europa in qualche modo troverà se mettere mano a un TARP europeo, a qualcosa di analogo, cioè al fondo straordinario con cui gli Stati Uniti hanno risolto il problema dei titoli tossici, ricapitalizzazione delle banche, pur sapendo il mercato che questo annuncio è di là da venire nei fatti, perché un accordo non c'è. È stato confermato ogni giorno però da prese di posizione come quelle del cancelliere Merkel, che ha detto comunque la Germania farà tutto il necessario per la ricapitalizzazione delle banche, da decisioni come quelle del governo franco-belgio di rimettere mano con capitale pubblico a Dexia e a tenere sotto controllo ben peso Société Générale. Quindi questa prova di buona volontà dei governi europei, incalzati da continue prese di posizione americane che indicano nell'Europa la responsabilità storica di aver aperto una nuova instabilità bancaria e finanziaria come quella di Lehman, se non più grave, induce i mercati a dire questa volta i politici europei devono capirla e devono creare quindi un meccanismo straordinario di adeguatezza finanziaria maggiore di quella di FSF e che chiami anche BCE, nel rispetto dello statuto, comunque a compiti straordinari, quantomeno per la liquidità alle banche e per evitare quindi che la prima cintura di sicurezza, quella della fiducia interbancaria, salti, perché se salta quella, addio euro, perché come vedete per il resto gli aiuti ai paesi invece che sono indietro sulla convergenza di finanza pubblica stentano a essere onorati, gli 8 miliardi alla Grecia non vengono dati, ed è questa la fiducia di cui in questi giorni, malgrado le divisioni, le polemiche, i ritardi, l'ennesimo rinvio del decreto sviluppo ieri al 20 di ottobre, leggete sui giornali che è stato affidato al ministro Romani a questo punto al coordinamento della cabina di regia invece che a Tremonti, trovate sui giornali il commento di Tremonti che dice tanto di qua dovete passare, Berlusconi si fa la passeggiata con Tremonti e dice ma noi andiamo d'accordissimo, Tremonti ribadisce sì ma abbiamo due idee diverse sui soldi e sullo sviluppo. Ecco, non sono questi i segnali in base ai quali i mercati stanno andando bene, ma per fortuna che invece i mercati credono invece che la classe dirigente europea, quantomeno per la crisi dell'eurodebito, ci metterà una pezza, speriamo, perché c'è un problema di credibilità anche della classe dirigente europea che non va distinto però è confuso con quella della classe dirigente italiana. Su questo scenario noi partiamo oggi, in questi due giorni che abbiamo fatto a Capri al convegno annuale di Between, che è un po' il meeting annuale obbligato di tutta la comunità delle società di telecomunicazione, dell'ICT italiano e del mondo internet, ed è un punto annuale per capire a che punto stiamo per fare passi avanti con questo settore, la cui crescita è ovviamente uno dei volani di sviluppo, dovrebbe essere così considerato almeno, della crescita italiana che fletta 15 anni. Quest'anno da due giorni si sta concludendo, facendo per così dire stato del fatto che uno dei dibattiti che per 3-4 anni ci siamo trascinati dietro, che era così sintetizzabile, esiste una modalità attraverso la quale il pubblico può indurre, costringere, favorire, a seconda delle diverse declinazioni di come concepite l'idea dello Stato, le grandi telco a mettersi insieme per fare uno sforzo congiunto di intenso approfondimento e velocizzazione della realizzazione di NGN, cioè di reti di nuova generazione a banda larga, larghissima, ultralarga nel nostro paese, perché di quello c'è bisogno, visto che senza di quelle non si fa più produttività in centinaia di migliaia di piccole imprese italiane che hanno risorse limitate, hanno bisogno di quello per crescere e moltiplicare l'efficienza delle loro catene di distribuzione, di fornitura e così via. Ecco, questo dibattito che per 3 anni ci siamo tenuti aperti, che alla fine è diventato lezioso, perché la risposta è che non esiste fino a questo momento una risposta credibile a questo. Lo Stato non c'ha né i denari pubblici come in Giappone, dove ci ha messo fior di decine di miliardi sopra, né tantomeno il caso di rimpiangere che siano strumenti pubblici a prendere pezzi di reti e a farlo, vista la prova che la presenza pubblica nell'economia italiana ci ha dato. Per il resto, di incentivi veri il pubblico non ce l'ha messi, perché come vi ricordo a Tremonti tutti i giorni qua, ragazzi, non c'è una lira. Quindi i players devono fare ciascuno il meglio che può e deve fare secondo la propria vocazione e la propria specializzazione, il proprio piano di ritorno degli investimenti, se fa più fisso che mobile, a seconda insomma anche dell'abilità nelle proprie strategie, nel fare che e questa è la puntata di oggi, perché partiamo da Steve Jobs. Nel fare che cosa? Nell'interpretare al meglio il processo di trasformazione dell'offerta di servizi a voi tutti, famiglie, individui, persone, imprese, declinando la grande rivoluzione che Steve Jobs ha accelerato perché si è creato dei nuovi device, l'iPhone, l'iPad. Però questa accelerazione è la sfida vera, non solo dei grandi geni. Non date retta a questa ondata di melassoso cosa che trovate sui giornali oggi. La realtà vera è che l'applicazione di nuovi device, cioè di nuovi congegni attraverso i quali si rende declinabile su uno strumento che apparentemente sembrava aver detto tutto, il telefonino a un certo punto, invece no, è il contrario, diventa una modalità attraverso la quale la semplificazione che tutti chiediamo diventa porta aperta alla moltiplicazione di servizi personalizzati, tailorizzati, di servizi che aumentano la produttività dei manager che utilizzano per le loro imprese, di servizi che hanno bisogno di banda fissa e di ponti mobili, ma che servono a moltiplicare ciò che fino a ieri sembrava invece risorsa limitata. E allora la mia prima risposta nel presentarvi gli ospiti e poi nel tacermi, perché sono persone molto più competenti di me, è che ciò che oggi vi porta a leggere e a dire di Steve Jobs non ce ne sono più, nella realtà vera di questo mondo dell'innovazione tecnologica, nel mondo di quei social network che frequentate persino un po' troppo, secondo me, ogni ora al giorno, troppe ore al giorno a chattare, però insomma nel mondo di Yahoo, di Google, di Facebook, eccetera, eccetera, quelli che in gergo tecnico si chiamano OTT, perché sono appunto diversi dalle compagnie telefoniche, quel mondo lì è un mondo che è pieno di gente così, è pieno, mi prendo la responsabilità di fare, e solo la cooperazione di tutti questi dovrebbe essere considerata dai politici e dai regolatori, perché i regolatori si occupano poi di tariffe, di come si fa la concorrenza, eccetera, eccetera, dovrebbe essere considerato un moltiplicatore da lasciare libero, da lasciare scatenato sulla prateria dei vostri desideri, sogni, bisogni. Ecco, in Italia tendiamo a non farlo abbastanza, questa è la mia idea. Abbiamo un modello regolatorio un po' da ridiscutere, abbiamo una politica che crede di poter fare lei quello che poi ci dice che non ha i soldi per fare, e soprattutto non abbiamo visione. Quello che manca qui non sono i denari, è la visione. Allora, la mia risposta alla domanda cosa ci lascia Steve Jobs è una grande fiducia che la visione, non i soldi, sono oggi il problema, e il problema è spiegare ai politici che per avere visione bisogna capire come va il mondo, come si trasforma il mondo nella società della comunicazione, delle compagnie telefoniche e di internet. E allora i tre ospiti che abbiamo con noi, io gli chiedo nelle loro risposte di partire ciascuno dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, dalla sua azienda, dal suo modello di visione, di dirci secondo lui cosa ci lascia Steve Jobs, però di essere liberi nel dire secondo loro in questo paese oggi qual è la vera risposta da dare alla condizione attuale del mondo dell'ICT, di internet e della telefonia, di tutto quello che passa attraverso queste dorsali e questi strumenti, pensando a che in ascolto c'è gente che non è tecnica del settore, quindi attenti a non usare troppi acronimi, bisogna essere rapidi, immediati e avere un'idea che se Giannino dice che hanno torto a non farvi scatenare, tentiamo di convincere che è così, perché altrimenti se è la colpa di Giannino, non è colpa vostra, come ovvio. Allora, chi sono i nostri ospiti? Noi abbiamo qua il paradosso, un po' ironia della sorte, visto che stiamo parlando Steve Jobs, e poi abbiamo invece il capo qua di Microsoft in Italia, Scott Giovane. Buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo il Stefano Parisse, che ci tiene molto che io dica il suo titolo per esteso, perché sennò poi pensa che lo confondo con Bert, lo dico apposta, no, il capo azienda di Vodafone, perché io ogni volta lo conosco bene, Paolo Bertolusso, e ogni volta sbaglio la vocale. No, qui è uno dei suoi bracci destri, Stefano Parisse, perché è il direttore strategy e new business di Vodafone Italia. Buongiorno Parisse. Buongiorno, buongiorno. E poi abbiamo con noi, ieri è stata una delle due relazioni che a mezza mattinata ha dato il quadro di quali sono le sfide che stanno sugli operatori telefonici, sfide in un mondo in cui la finanza, insomma, si attende non troppo più da loro, perché tende a comprimerne molto i valori, perché non crede che possano reggere i flussi di cassa che realizzano. E abbiamo con noi Giuseppe Iannelli, che è il managing partner Communications, Media and Technology per l'Italia, la Grecia, la Cina, la Russia, la Turchia e il Medio Oriente di Accenture. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io comincerei da Scott Giovane, ora poi io mi taccio. La domanda è: cosa lascia a lei nella sua esperienza questa cosa di Steve Jobs? Ma in realtà dal punto di vista di Microsoft Italia cosa si può fare perché questo mondo possa davvero soddisfare meglio gli italiani. Tenga conto che, come sempre, gli sms che arrivano sono lì a lamentare tempi lunghi dei operatori telefonici, le cose che non funzionano, non investono abbastanza, ma come l'ICT in realtà chiude in Italia, le multinazionali se ne vanno, Siemens così via, ma di che cosa ci raccontate? Il nostro paese da questo punto di vista perde colpi e non li guadagna. Intanto parto dalle parole del nostro fondatore, una persona che ha giocato un ruolo importante nella Information Technology Community, che si chiama Bill Gates, che ha rilasciato proprio ieri mattina un'interessante dichiarazione che è profondamente personale, che racconta del rapporto personale che avevano Steve Jobs e Bill Gates, e questo calore che passa attraverso le parole in qualche maniera è anche un po' il segno di come è cambiato l'information technology, cioè un mondo fatto di righe di codice che in realtà la Apple e Steve Jobs in particolare sono stati in grado di trasformare in una forma di calore. Molte persone usano oggi la tecnologia per raccontare la propria vita personale, per trasferire in un nanosecondo un'immagine di un bambino appena nato a tutte le persone che attendevano di vedere che viso potesse avere e poter poi ricevere commenti e congratulazioni in un altro nanosecondo in forma di ritorno. Cioè una tecnologia che è nata per aiutare le aziende a diventare produttive, oggi diventa il compagno diciamo più importante per ciascuno di noi, e questo sicuramente è stato un passaggio estremamente importante fatto da una persona che sicuramente non guardava solo all'oggi e al domani, ma ben oltre il dopodomani, e si è portato dietro un'azienda, è stato in grado anche di motivare le proprie organizzazioni in questa direzione. Quindi certamente Steve Jobs ha segnato per molte generazioni il significato, l'importanza e il ruolo della tecnologia, e da questo punto di vista per gli operatori del settore sicuramente è un grande passo avanti. L'information technology, cioè il mondo che è nato con la finalità di portare strumenti che permettessero alle persone di fare o più cose o cose, le stesse cose, con molto meno bisogno di risorse, quindi l'efficacia o l'efficienza, è sempre stato percepito come un elemento a supporto delle aziende, delle pubbliche amministrazioni, cioè sono sempre state le aziende a comprare tecnologia e poi chiedere ai propri dipendenti di usarla all'interno della propria organizzazione, perché era come un elemento, era come acquistare una determinata materia prima, un nuovo strumento per lavorare le materie prime. Non abbastanza in Italia, l'Italia da questo punto di vista... Non interrompo ma inciso, ascoltatore, Massimo da Bologna, lavoro con gli enti pubblici, una piccola società di informatica, la prima cosa che hanno fatto per la crisi dei loro bilanci, sto parlando degli enti pubblici, è stata quella di ridurre i fondi per l'assistenza e manutenzione dei prodotti software. Non mi sembra un bel segnale, lo dica Iovan. Indubbiamente non è un buon segnale, e del resto quando avvengono queste cose ci si può o lamentare oppure domandarsi come mai non è ritenuto sufficientemente importante da parte dei nostri clienti o da parte della nostra pubblica amministrazione nel caso specifico, non è ritenuto così importante l'information technology. Questo è il tema. Prendiamoci noi le responsabilità di quello che è il ritardo dell'information technology nel nostro paese, non imputiamolo solo ai nostri clienti, perché è evidente che non abbiamo fatto sufficientemente bene il nostro lavoro. Vuol dire anche, e se vogliamo questo potrebbe essere in qualche maniera legato all'ascito di Steve Jobs, parlare di tecnologia in maniera semplice, e soprattutto quando si spiega cos'è la tecnologia, non solo come funziona ma a cosa realmente serve, in un linguaggio che è molto più quello dei nostri clienti, degli utenti. Secondo me questo già potrebbe aiutare da questo punto di vista a portare più tecnologia al nostro paese, che se lo andiamo a misurare, per dare un solo indicatore, mostra che le piccole e medie aziende italiane spendono per addetto in information technology, quindi software, hardware e tutto quello che ci contorna, solo la metà di quanto invece faccia in media una piccola e media azienda in Europa. Domanda, ma l'impressione che hanno molti piccoli, piccolissimi microimprenditori italiani è che questo in qualche misura dipende anche dal fatto che i giganti della ICT, i grandi gruppi internazionalizzati e multinazionalizzati come il suo, in realtà vadano poi per linee di sviluppo di prodotti e servizi che sono ovviamente congegnati, tailorizzati sulle esigenze di classi dimensionali di imprese che non sono le nostre, perché noi abbiamo questa anomalia, e che quindi voi non facciate abbastanza per offrire software specializzati per le esigenze del circolante, dell'ottimizzazione dei clienti, fornitori, eccetera, di piccoli e talvolta piccolissimi imprenditori. C'è del vero in questa obiezione? Ma sicuramente c'è del vero, perché è una constatazione oggettiva, quindi non si scappa via da questo. E la motivazione è che inizialmente, fino ad oggi, l'information technology aveva bisogno di una scala, cioè di poter sviluppare applicazioni che fossero per clienti di una certa dimensione. Quindi in una grande organizzazione una gestione del personale informatizzata aveva un senso, in una piccola media azienda magari meno, perché ci sono proprio tecnicamente meno persone. Quello che è successo negli ultimi 3 anni e che si vedrà crescentemente, che in realtà si riesce ad abbassare nel nostro mondo la soglia di accesso, e questo avviene attraverso una modalità che si chiama cloud, cioè spostare tutti questi applicativi che oggi sono residenti sui server e sui PC in un unico grande data center o diversi grandi data center, e quindi non è più necessario avere un grande applicativo che gestisce queste tematiche su un grande server, e quindi necessariamente per un grande cliente. In realtà si può avere un piccolo servizio per un piccolo cliente, e di colpo questo non è solo una buona notizia per le piccole e medie aziende italiane, che di colpo potranno portarsi processi studiati per grandi aziende invece nella propria organizzazione, ma questa è un'ottima notizia in realtà per le circa 25.000 aziende dell'information technology italiane che lavorano con Microsoft, che oggi hanno aiutato le medio-grandi delle aziende come nostri clienti, in realtà per tutte le circa 4 milioni di aziende, perché porteranno servizi direttamente, tra l'altro facendo pagare solo ciò che si consuma, che anche questo è in qualche maniera un'innovazione. Quindi sicuramente, se guardiamo avanti e quindi prospetticamente, cambia fortemente, avremo una introduzione di tecnologia molto più veloce per le piccole e medie aziende, che si misurerà in un'unica maniera: la produttività delle singole aziende si accrescerà significativamente. A quel punto non avremo bisogno di fare proselitismo, semplicemente saranno i nostri clienti che ne parleranno. Iannelli, ieri lei ha un po' gelato la sala, ma la sala in realtà è fatta di addetti ai lavori, quindi tutti lo sapevano, però chi è a casa no, perché ha detto: io in realtà da più di 20 anni che guardo i dati di questo settore, ho mai visto il mercato che non che se ne fida così poco, ma che lo prezza così poco rispetto alle aspettative riposte in lui. Parliamo in questo caso della telefonia stretta più che della ST in senso ampio. Darcene qualche ulteriore conferma, non spiegare a chi è a casa perché. C'è un altro tema, tema che ieri, in un'intervista rilasciata solo 24 ore, il capo di Telecom Italia, il presidente operativo di Telecom Italia, Franco Bernabè, ha iniziato a porre anche con una certa energia, perché ha detto: come si vede qui nell'asta che c'è appena stata per LTE, qui di spazio ormai per 4 operatori mobili non ce n'è più, 3. Se uno va a vedere cosa succede in America, il consolidamento è molto forte, nel senso che AT&T e Verizon oramai ci hanno in mano 60% quasi, che un mercato americano è una roba pazzesca. E mi viene in mente che forse l'America abbia un disegno in tutto questo, cioè consente agli operatori acquisizioni che ne allargano il perimetro e quindi gli garantiscono volumi e margini e ritorni, e nel frattempo è in America che stanno i grandi aggregatori di internet, che sono i grandi social network, che tradotto a casa voi utilizzate per chattare, ma in realtà sono quelli che vi profilano ogni secondo in ogni vostra decisione, scelta, musica, video, con chi chattate, che genere di prodotto, eccetera, e campano con questi vostri dati profilati. Quella è la vera loro attività che genera ricchezza. E quindi l'America in realtà una risposta a questa crisi del tech la trova. In Europa mi sembra che siamo un po' indietro. Come stiamo messi? Ah, sicuramente il mercato americano è il mercato in cui c'è tutto il centro dell'innovazione su internet, è diventato probabilmente recentemente anche sul mobile il mercato più avanzato, e quindi da questo mercato ci sono tante lezioni interessanti. Noi ieri abbiamo sviluppato il tema, perché l'Europa diceva agli americani: sul mobile noi siamo molto più avanti di voi, questo gap è stato colmato e superato. Ma diciamo che ieri abbiamo trattato questo tema di un mondo che evolve verso i dati, e dell'impatto che la diffusione degli smartphone sta creando nell'utilizzo dei consumatori. E sicuramente questo fenomeno in America con gli smartphone, con i tablet, è molto evidente. E quindi quello che sta succedendo è che la competizione si sta spostando sui dati. Ovviamente gli investimenti nelle reti di nuova generazione sui dati sono particolarmente rilevanti, e quindi pesano sulle capacità finanziarie degli operatori, per cui sarà interessante vedere il regolatorio in America, però diciamo, se l'acquisizione di AT&T con T-Mobile fosse approvata, ci troveremmo in una situazione in cui i primi 2 operatori hanno addirittura il 75% del mercato. Ci sono dei driver che sono sicuramente di economia di scala, ma c'è sicuramente anche un disegno di preservare valore in quella che è una industria assolutamente strategica per l'economia. E quindi questo fenomeno avverrà con diciamo un'applicazione diversa anche in Europa, ovviamente, in cui la situazione è molto più frammentata. Ci sono già dei casi come la Grecia e la Svizzera in cui il mercato si sta muovendo in quella direzione, ma certo o attraverso il consolidamento o attraverso altre forme di cooperazione come lo sharing della rete, piuttosto che anche l'outsourcing di queste componenti, il mercato si adatterà a una competizione che si sta muovendo molto più sui dati. Certo, per tirare fuori i molti miliardi che servono, per se si pensasse davvero che la risposta NGN italiana deve essere molta più fibra dovunque rispetto a quella che abbiamo, rispetto alla loro capacità di generare cassa per gli operatori di telefonia fissi, se non è fisso, è un po' problematico. Ieri è uscita una tematica, una polemica molto forte, perché Fastweb ha detto: noi abbiamo delle tariffe di terminazione a vantaggio del mobile di 10 volte superiori, questa roba bisogna superarla, perché altrimenti non venite a chiedere a noi che ci perdiamo, perché solo Telecom Italia riesce in realtà ancora sul fisso a far soldi. Noi bruciamo cassa, come diavolo possiamo investire poi per fare gli NGN con più fibra? Ah, diciamo, ogni operatore, in base alla sua dimensione, alla sua storia, ha un punto di vista diverso su questo tema. Probabilmente Stefano è più titolato a rispondere. Il mercato in un modo o nell'altro trova poi un equilibrio, per cui io credo che nel corso del tempo gli operatori si adatteranno alla nuova realtà economica e quindi troveranno appunto delle forme o di consolidamento o di collaborazione. Certo, però per le compagnie telefoniche la vera cosa è appunto quella la strategia dei device, voglio dire, cioè bisogna personalizzare l'offerta di servizi, magari accettando l'idea di dover segmentare uno stesso cliente invece che tenerselo. Lo stesso cliente va visto attraverso una molteplicità di aspetti, e su quello gli devi offrire servizi diversi a costo di utilizzare anche sim diverse. Ti devi creare piattaforme cooperanti interni al tuo stesso gruppo, concorrenti, per così dire. Sì, è un mondo, diciamo, più grande in termini di numero di device. Ci sono device completamente nuovi e anche più con maggiori opportunità per gli operatori, perché avevamo prima un mondo in cui c'era una SIM per un utente, probabilmente oggi ce ne sono già tre, e probabilmente con tre operatori diversi. Per cui è un mondo sicuramente di più device con tipologie di utilizzo diverse. Le applicazioni cloud creeranno una necessità di sincronizzazione continua tra questi device, e per gli operatori sarà importante le politiche di prezzo che potranno monetizzare un traffico che comunque cresce in maniera esponenziale. Esponenziale. Come non detto, cari ascoltatori, l'apertura positiva ha durato pochi minuti, la borsa è già girata a negativo, tra i titoli che scendono Fiat Industrial, Exor, mentre Terna e Saipem hanno il segno più, c'è chi perde già il 4%, Tenaris, Fonsai perde il 3%, quindi per il momento siamo a poco sotto come media del FTSE MIB la parità, però quindi l'apertura è incerta in attesa di segnali che vengono dai mercati. Detto questo, sentiamo immediatamente qualche nostro ascoltatore, cominciamo con Roberto da Bologna. Prego Roberto. Sì, buongiorno e complimenti Giannino, l'ascolto tutte le mattine. Comunque so di dire una cosa che sarà poco popolare per i suoi ospiti. Secondo me bisogna assolutamente fare in modo che chi si occupa di infrastrutture, di infrastrutture di telecomunicazioni, cioè di trasporto dei dati, non coincida con chi investe sui contenuti e sugli applicativi, perché altrimenti avremo un soffocamento di quella creatività di cui lei parlava originariamente. Questo è, a mio parere, il punto. Per cui quando si parla di cloud computing, no? E si dice che si liberano energie per quanto riguarda chi sviluppa software, è evidente che io questo faccio, per cui sono parte in causa. Questo è corretto, si creano dei monopoli, si comprimono le marginalità di chi invece si esprime con della creatività attraverso le applicazioni, e il risultato è poi, facendo un salto logico, quello che ha detto è chiarissimo, Alberto, separazione, perché l'integrazione verticale naturalmente porta a improprietà. Lei sa naturalmente che nelle architetture regolatorie il modello che ci sta indicando in realtà si stenterebbe a vederlo in un solo paese, perché separare la titolarità di infrastrutture su cui si è investito con poi anche lo sviluppo di contenuti e così via, è vero che rispetto al modello di integrazione globale che le telco sembravano seguire anni fa si è tornati ciascuno a focalizzarsi sul proprio business, però naturalmente non è che ci siamo tornati nel mondo della separazione pura. Luca da Torino che dice invece? Sì, buongiorno. Volevo raccontare brevemente questo. Nel 2008 noi già parlavamo ai nostri clienti, siamo una piccolissima realtà, di cloud computing. Sì. Okay? Ci guardavano come i marziani. Non entravano neanche nel merito, finché poi ultimamente insomma si è iniziato a sentire la nuvola italiana, tutta una serie di... Questo sì. È un piccolo esempio per dire cosa? Che comunque i manager, per cui parliamo di ICT eccetera eccetera, sono, diciamo così, di vecchia generazione, evidentemente loro per primi. E il punto poi principale in Italia in generale, la prima domanda è: sì, ma questa cosa qua chi ce l'ha già? Dove invece all'estero essere pionieri e comunque capire qual è il vantaggio, si fa a gara a chi arriva per primo, qui da noi sostanzialmente se è una cosa che non è già stata fatta, ipertestata e non si hanno delle referenze di alto livello, riuscire... Però Luca, lei sta ponendo due problemi diversi, lei dà un giudizio un po' generalizzando su, diciamo, età media e capacità media di conoscere davvero il settore per come si evolve il mondo del quadro del dirigente telco italiana, e dall'altra parte parla invece del ritardo e della diffidenza del cliente medio italiano, che sono due cose un po' diverse. Però io qui c'ho Stefano Parisse che si trucca tutte le mattine per sembrare giovanissimo e in realtà no, è scandalosamente giovane rispetto al posto che gli ha dato Bortoluso, dovrebbe cacciare secondo me. No, sto scherzando, questa è una trasmissione in cui ogni tanto ci permettiamo un po' di ironia. Ecco, nella domanda anche lì da cui siamo partiti, Jobs e cosa lascia a te e che cosa insegna sul totale della filiera telco, ICT e così via. Iniziamo a rispondere anche ad alcune di queste domande. E cloud è sicuro, non è sicuro, è davvero la risposta e quindi porta a questa moltiplicazione richiesta di interconnettività, perché significa che tu devi, siccome se hai tutto store altrove, devi per forza essere, non so, con i nostri ascoltatori ci dicono, ma se qua ci abbiamo poche centinaia di bit, cosa ci dite cloud? Come saremo mai in grado di farlo? Allora, grazie per l'età, purtroppo non sono giovanissimo, comunque il trucco funziona molto bene. Ma due cose, su Jobs io credo che una cosa importante che non ho visto essere stata ripresa molto è che al di là della sua capacità di visione, la capacità di trascinare, di creare prodotti eccezionali, lui ha fatto una cosa molto bene, ha forzato alla cooperazione di industrie molto diverse. Se pensiamo è stato il primo a riuscire a convincere le major a mettere in modo legale i contenuti musicali sull'iTunes. È stato il primo che ha convinto ad aprire gli sviluppatori software sull'app, a riuscire a far fare soldi da piccole applicazioni che adesso girano su iPad, iPhone, eccetera. È stato il primo a riuscire a convincere, ad insegnare ai cinesi a fare prodotti di qualità, perché noi non ci dimentichiamo che tutta la produzione di Apple è fatta in Cina, non è fatta a Cupertino, non è fatta da Apple. È stato bravissimo a spingere la cooperazione dell'industria, e la cosa secondo me che non è, è una cosa che forse è tipicamente più italiana che di altri paesi, è che Apple è un'azienda, non è una persona, e che probabilmente sopravviverà a lui stesso e anche per l'ecosistema che è riuscito a generare, di cui in realtà penso i precursori sono le persone di Microsoft, non perché Pietro sia qui con me, ma loro l'hanno fatto molto bene. Quindi qual è la lezione che dobbiamo tirare fuori da questo? È che in questa industria dell'ICT è fondamentale imparare a cooperare bene. Noi nel mobile... un'altra cosa che ogni tanto ci dimentichiamo, mobile e fisso hanno tradizioni e origini diverse, in cui il mobile è nato dalla cooperazione dell'industria europea, degli operatori europei che hanno definito uno standard, è stato un successo planetario. L'America del mobile ha radici molto diverse, il mobile in America è nato con standard diversi, ci sono le due reti che abbiamo citato, sono due reti che non si parlano perché sono standard diverse, quindi uno o si prende un telefono di un modo con Verizon, o se ne prende un altro che è TNT, quindi hanno proprio fallito nel generare scala. Perché sono andati con una competizione spinta infrastrutturale. Agli inizi non si riusciva, non si poteva neanche mandare un SMS, esatto, da una rete all'altra. Quindi diciamo, è una roba molto diversa. Come si fa ad andare avanti e a sviluppare soluzioni? Io credo che il meccanismo, la cultura della cooperazione che ha fatto il successo del mobile deve andare anche nel fisso e deve pervadere anche l'ICT. L'ICT è molto più avanti delle telecomunicazioni in questo, in meccanismi di cooperazione. Dobbiamo imparare tutti da quello se vogliamo veramente far succedere qualcosa di importante e portare in Italia la banda ultralarga che poi servirà alle imprese per il cloud, per le applicazioni sicure, eccetera, eccetera. Sul punto di come si fa a essere sicuri del cloud, ma la mia risposta è che il cloud non deve essere un cloud disperso chissà dove, senza destinazione e chissà cosa ne fanno dei miei dati. Chiaro che quanto il cloud si integra con la rete utilizzata dalla stessa azienda e meglio è, nel senso che il mio punto di vista è che quanto più vicino a questa nuvola sta al cliente meglio è, quindi deve risiedere nella rete che dà anche l'accesso ai servizi, perché così le aziende, gli imprenditori sanno chi guardare in faccia se hanno bisogno di capire cosa ne è dei loro dati. Il cloud è una gigantesca macchina formidabile per fare scala. Quindi dove deve stare? Deve stare effettivamente dentro infrastruttura, integrata con l'infrastruttura del fornitore di connettività e di telecomunicazione. Posso fare una domanda che poi giro anche a Iannelli? Ieri è uscito a un certo punto nel dibattito l'amministratore delegato Sam Bessada di Wind, ha detto: io voglio tirare un colpo secco a uno dei miti della la net neutrality che piace molto al popolo di internet. Neanche per idea, diciamocelo chiaro, noi paghiamo per realizzare le nostre infrastrutture fisse, noi paghiamo per le frequenze mobili e quindi il problema è che è vero che con i soldi del traffico che si genera è il nostro mestiere incassarli e facciamo quello, ma poi chi ci occupa una parte così ampia dello spettro di banda dovrebbe riconoscere i diritti. Chiaro che stiamo parlando dei grandi aggregatori, dei grandi social network e così via. Come si risolve questo contrasto di grande intensità di capitali sugli investimenti infrastrutturali rispetto a chi poi dell'autostrada approfitta gratis and free? Ma io ho una visione abbastanza semplice, che si risolve con la competizione, con regole chiare e pensando al cliente finale. Cosa vuol dire questo? Oggi la tecnologia permette di utilizzare la banda in modo molto vario e diverso, la possibilità di dare qualità del servizio diverso in funzione del chi ha intenzione di comprarlo, velocità, priorità e altre cose. Quindi la tecnologia ci permette di fare offerte di connettività ampie e diversificate in funzione della propensione dei clienti ad utilizzare la rete e a pagare per questo. Allora, net neutrality presa nella sua accezione diciamo più dogmatica, che piace di più all'internet company, è un tubo, un prezzo, uguale per tutti. Suona un po' come la Ford T nera dei primi, sì, del Novecento. Possiamo essere un po' più sofisticati di così, perché non tutti possono permettersi un unico prezzo per la rete, ma magari ci sono alcuni che sono disposti a pagare poco per avere il servizio base, altri sono propensi a pagare di più per avere una Ferrari. Nelle macchine abbiamo imparato che andiamo in Italia dalla Panda alla Ferrari e ce ne sono tante in mezzo. Quindi la risposta è, per essere chiari, significa abituiamoci all'idea che internet bisogna pagarlo, non deve essere gratis, e che ci saranno diversi livelli di prezzo per diversi livelli di qualità, potenza, quindi le bande, esatto, e velocità di upload del servizio. Esatto. E lui ci condivide questa visione? Sì, direi che senz'altro c'è la necessità di monetizzare questo grande traffico dati che ad oggi non ha creato una crescita dei ricavi degli operatori così elevata. Sicuramente il modello di un internet sostenibile da parte degli operatori si muove in n direzioni. Una è quella che ha citato Stefano, quindi quella di probabilmente segmentare le politiche di prezzo facendo pagare la qualità del servizio per chi la vuole, e avendo invece degli altri casi in cui una qualità best effort è sufficiente. Il tema, come dire, di quanto e come gli operatori over the top come dire, devono contribuire è un tema effettivamente sul tavolo, per cui sarà un dibattito che andrà avanti. Su queste due direttrici probabilmente c'è la direzione di trovare una soluzione bilanciata per avere una, un modello di prezzo che sia nel futuro sostenibile. Cloud, lo dico per chi sta chiedendo, ma che cos'è sta cosa del cloud di cui state parlando? Io l'ho detto perché bisogna sempre ricordare. Allora, cloud significa nuvola, per capirci. Non è detto che dobbiamo più accettare la vecchia idea per cui tutto ciò che serve a voi, persone, individui, famiglie, ma soprattutto imprese, quando si parla di tutti i tera di dati per, servono a un'impresa per, che vengono processati ogni giorno per qualunque sua procedura gestionale, che tutto debba essere accentrato su roba, capite, i vecchi dischi e così via, che stanno all'interno del perimetro fisico. No, noi dobbiamo andare verso un mondo in cui tutti questi dati stanno fuori, per così dire, sono in strutture che vi offrono flessibilità, agibilità, non vi appesantiscono. Naturalmente questa roba, perché funzioni così, questo principio del cloud, ha bisogno di una connettività il più possibile, rapida, veloce, elevata, e quindi infatti voi state ridendo perché sghignazzate dicendo ma di che cosa ci state parlando? Allora, noi adesso abbiamo il minuto di informazione stradale e poi riprendiamo questa volta con un giro che parla di Italia, quello che si può fare oggi rispetto alle condizioni date e che verosimile, se vogliamo accogliere questo appello della realtà di Steve Jobs che ci faceva Stefano Parisse, uno che ha insegnato e anche indotto con quello che faceva a cooperare, oltre che, come giusto, nel mercato a combattere, a concorrere, a competere. Eccoci tornati qua in studio, in questi ultimi minuti tentiamo di focalizzarci sulla condizione italiana. Molti ci chiedono, per le multinazionali stare in Italia del settore è diventato sempre più difficile. Negli anni recenti Nokia, Ericsson, Siemens, ciascuna ha iniziato a smontare presidi italiani, sia di tipo manifatturiero, che a diminuire invece l'importanza del commerciale che c'era in Italia e così via. Questo per Microsoft è vero o non è vero? La condizione generale del paese davvero poi spinge i grandi gruppi a ridimensionare e a dire, beh, qui tutto sommato questo paese che non cresce, eccetera, eccetera, in definitiva si pesa di meno quando si è Microsoft Italia rispetto al resto del gruppo oggi per la condizione italiana? Dunque, all'interno del gruppo Microsoft l'Italia ha un peso significativo e ce lo ha sempre avuto storicamente. Noi siamo presenti in Italia da 27 anni. E quando guardiamo prospetticamente avanti, quindi per decidere quanto investire in più o in meno, tutto questo deriva da un'analisi di qual è il tasso di informatizzazione del paese, quindi se abbiamo finito il nostro lavoro, se c'è ancora molto da fare. Quindi la risposta è invece evidentemente nel secondo caso, tant'è che in realtà la nostra azienda continua a investire in Italia in particolare. Stiamo, ovviamente noi continuiamo a cercare sempre per esempio i migliori giovani da portare alla nostra organizzazione, quindi assumiamo guardando al mondo dell'università per far sì che la nostra azienda sia sempre, diciamo, piena di talenti e che i talenti vengano, scelgano sempre la nostra azienda come punto d'ingresso per il mondo del lavoro. Quindi in realtà noi stiamo accelerando in termini di presenza nel paese. Peraltro la nostra azienda opera principalmente attraverso questi 25.000 aziende di information technology che menzionavo all'inizio e che a loro volta stanno investendo. Quindi in realtà per noi è essenziale l'Italia per il ruolo che ha, in particolare in un'ottica della multinazionale che quindi guarda diversi paesi con le proprie specificità. L'Italia rappresenta una duplice lettura importante. La prima è come si affronta il mondo delle piccole e medie aziende e come si informatizzano. L'Italia da questo punto di vista è un campione, lo sappiamo, se ne parla molto nel nostro paese, ma anche per la nostra azienda che ha un'anima più americana, seppure in Italia con forte presenza italiana, questo fenomeno delle piccole e medie aziende, di come operano e come l'information technology trasforma i processi è un tema, è un campione incredibile. Il secondo è quello della trasformazione della pubblica amministrazione, perché per ciascuno di noi come cittadino, vivendo in Italia, si ha la percezione che la nostra pubblica amministrazione sia profondamente meno digitale, molto meno avanzata, non risponde alle nostre esigenze ed è qualcosa che si osserva, ma non lo è molto gentile, ma non è nelle sue periferie, però insomma, diciamo che rispetto a tutte le promesse i tempi di realizzazione di questi passi avanti della digitalizzazione API sono sempre enormemente sono lontani, cioè. Sì, però il vero tema è che sì, in realtà negli anni si sono fatti enormi investimenti nella pubblica amministrazione. Qual è l'elemento che sarebbe necessario trasformare per poi aprire di colpo ai servizi digitali verso il cittadino, che peraltro in Italia è prontissimo ad accettare di operare col proprio comune attraverso il web? È solo l'ultima parte, nel senso che tutto la grossa parte dell'infrastruttura pubblica amministrazione è stata digitalizzata. L'ultimo miglio sarebbe il rapporto finale, il salone dove uno oggi ancora va a fare l'aggiornamento della propria carta d'identità, quello quando diventa digitale, che vuol dire il PC o l'accesso attraverso il PC. Cioè, io devo dire, trasportando la polemica politica, delle 10 lettere che Brunetta, che qui non è venuto in questi due giorni perché ha di meglio da fare che confrontarsi col settore, ha mandato a Tremonti, 7 sono tutte su cose non realizzate di questo tipo. Le risposte che da ieri Tremonti inizia a mandare sono: la competente sezione della Ragioneria Generale sta esaminando l'impatto che il tuo provvedimento peraltro su cui siamo impegnati, avrà sui conti pubblici. Tradotto, bambo, non c'è una lira. Ecco, un paese che non capisce che bisogna fare scelte selezionate di finanza pubblica, cari Toprini, ascolto, vuol dire che vi fotte solo le tasse. Scusate, sto cambiando marcia, non coinvolgo i manager rispettosi qua, perché non sa fare le scelte che ogni manager d'impresa è chiamato e pagato per fare. Scegliere quando bisogna fare, dove si sviluppa, cosa si taglia perché costa troppo. Scegliere, i bilanci non si modificano per fare sviluppo né per fare razionalizzazioni prendendo le funzioni lineari. Chi vi ha raccontato questa roba per anni, e io mi dispiace su questo, siccome la penso come loro mi incazzo ancora di più, andrebbe preso a calci nel sedere, perché vi ha venduto una fesseria e pagherete amaramente con più tasse, meno crescita. Chiuso l'inciso, ma tanto per capire che stiamo parlando di robe che vi toccano in profondità. Ma questa sensazione però dei gruppi internazionali che hanno meno interesse e che saranno un po' dall'Italia e è una sensazione che però è più profonda che l'impressione di qualche ascoltatore, cioè, insomma, un po' di fatti ci sono. Ma sicuramente, come dire, l'Italia si trova in una fase abbastanza delicata. Per quanto riguarda l'esperienza di Accenture, noi operiamo nel mercato dei servizi, aiutando i clienti nelle trasformazioni abitali della tecnologia, e abbiamo 240.000 persone a livello mondiale su più di 50 paesi. In Italia ne abbiamo 11.000. E ovviamente non sono commerciali, abbiamo consulenti, abbiamo architetti, e circa un terzo di queste persone lavorano oggi in un territorio che varia dalla Russia alla Turchia al Medio Oriente, per cui noi investiamo in Italia, esportiamo talenti, esportiamo competenze manageriali, e quindi vediamo con molto interesse questo sviluppo, e pensiamo addirittura di assumere in Italia probabilmente 1.000 persone. Per cui noi siamo ancora in una fase in cui l'Italia è per noi un centro di eccellenza. Sì, nelle non solo un periodo da difendere, ma da espandere. Sì, Parisse, sì. Un esempio concreto come coopererete con i vostri concorrenti? Beh, allora, come coopereremo è una parola difficile. La nostra ambizione è di creare insieme nuovi servizi. La cooperazione che è già partita è quella per i sistemi di pagamento mobile e per i nuovi sistemi di comunicazione. Il mio sogno è di riuscire a cooperare per cose anche un po' più capital intensive, come quelle della fibra. Noi siamo un'azienda diciamo di origine mobile, ma siamo fermamente convinti che c'è bisogno anche di portare nuove infrastrutture nel sottosuolo attraverso la fibra ottica, e siamo pronti a collaborare e a investire se ci sono le condizioni di ritorno. Perché noi siamo una multinazionale, i soldi li mettiamo laddove c'è il ritorno economico, pensiamo che ci siano le condizioni per avere dei ritorni economici, bisogna semplicemente lavorare insieme e non contro, perché questo settore, come dicevamo in apertura, è fatto di cooperazione e di competizione. Sulle infrastrutture è il momento di cooperare. Bene, allora io saluto e ringrazio i nostri amici manager qua. Alcuni hanno criticato, dicendo, ma questi sono tutti grandi gruppi in cui si decide fuori, figurati Microsoft Italia, Vodafone Italia, Accenture, una cosa internazionale. Vi sbagliate, teniamoceli stretti, cari ascoltatori. I piccoli non crescono senza l'integrazione verticale, la capacità di sviluppo, di creazione di nuovi servizi che da loro va offerta proprio da questi grandi gruppi. Quello che non capisce la politica, andrebbero aiutati questi signori qua, non loro personalmente, che hanno nella vita hanno già, insomma, hanno fatto giusto per mettersi a posto, ma i loro gruppi. Invece, tradotto in concreto, il signor ministro, vado sempre là, alle telco italiane gli ha detto: o mettete mano e strapagate queste belle frequenze per questa asta che vi daremo poi nel 2013, perché intanto pagate, o altrimenti vi metto la roba in taxi. Capite? Ecco, questo è ciò che fa il governo che voi ancora dite che io critico troppo. Bah, ci sentiamo lunedì, Linea Giornale Radio.